Ora so, Signore, che tu sei con me. Io vorrei restare per sempre con te. Amare te, Signore, solo te. Amare te, Signore, solo te. Ora so, Signore, che tu vivi in me. Sei la mia pace, non cerco che te. Amare te, Signore, solo te. Amare te, Signore, solo te. Ora so, Signore, che il tuo cuore in me, tutto ciò che vuoi è amare me. Tutto ciò che vuoi è amare. Amare me, Signore, è ciò che vuoi. Amare me, Signore, è ciò che vuoi. Tutto ciò che vuoi è amare me. Tutto ciò che vuoi è amare me.